известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. It's good to be back in LA. Everybody have a seat. Have a seat. I was going to come out and sing. But my political advisors told me not to. The campaign just gave us a chance to bring about change. E a un certo punto si è concesso un'altra tournée in California. Abbiamo capito che a occhio, una volta ogni due mesi, Obama si va a fare un giro a Ovest. Era successo, non so se ricordate, in coincidenza, attorno al 20 marzo, in coincidenza poi con quella sorprendente uscita diplomatica del discorso rivolto al popolo dell'Iran. È risuccesso nelle ultime ore fino a stanotte. Adesso è in volo volo di ritorno per Washington, Barack Obama, per un importante appuntamento di cui parleremo tra pochissimo. Ieri si è concesso alla platea californiana, in particolare una platea di star di Hollywood. Si è rivisto in scena l'Obama anche più gigione, quello che dice le battute, ma anche che prova così a sostanziare in una serie di slogan come stanno andando le cose. E alcuni degli slogan che ha usato ieri, se affidabili, se veri, se credibili, insomma, servono a incoraggiare non solo gli americani ma un po' tutto il mondo, perché ha detto che si è usciti dal baratro e che ora in America c'è una calma che non esisteva prima. Questa ci sembra un po' propagandistica. Ha detto: sono fiducioso nel futuro, anche se non sono ancora soddisfatto, e hanno battuto le mani, come diceva anzi John Lennon, hanno fatto tintinnare i loro orecchini di diamanti. Jamie Foxx, Marisa Tomei, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Steven Spielberg, il suo socio DreamWorks che si chiama Jeffrey Katzenberg, e nel frattempo hanno staccato qualche assegnuccio e hanno lasciato depositati la piccolezza di 4 milioni di dollari nelle casse del Partito Democratico, perché poi alla fine di questo discorso sapete bene o male che cosa è andato a fare Barack Obama in California. È andato a fare campagna elettorale, perché ormai l'America è uno di quei paesi, ma direi che l'Italia non è che poi è proprio troppo differente, quasi in campagna elettorale permanente, e già si intravede in fondo alla strada, lontana ma non lontanissima. Se facciamo i conti sono 17-18 mesi, l'elezione di medio termine del 2010, quella in cui l'America di Obama e anche di Sonia Sotomayor pensa forse dare la spallata definitiva all'America repubblicana e conservatrice, ma noi siamo tutt'altro che convinti che ci riuscirà, e di conseguenza per fare tutto ciò servono soldi, e Obama è andato a fare una volta tanto l'uomo di partito. Come vi dicevo, importante appuntamento nel pomeriggio americano per Barack Obama, ma prima di parlarvene vi informo che è ufficiale, c'è la nomina del nuovo ambasciatore dell'amministrazione Obama in Vaticano. È un giovane teologo cattolico di 45 anni di origine cubane. La razza sta entrando sempre più a passi al gigante nell'amministrazione Obama. Si chiama Miguel Diaz, sarà l'ambasciatore alla Santa Sede, è professore associato di teologia alla St. John University di Collegeville nel Minnesota, ed è stato consigliere di Obama in campagna elettorale durante le presidenziali. È uno dei 26 esponenti cattolici che hanno firmato la dichiarazione a favore della nomina della cattolica Kathleen Sibelius alla carica di segretario alla salute. Naturalmente le consulenze che ha offerto a Barack Obama sono state essenzialmente di ordine religioso, come lavorare sul elettorato cattolico, ottenere risultato e voti. E infine vi dicevo del piatto forte di giornata, andrà in scena alle ore 22 italiane, ore 16 di Washington, quindi tra una cosa e l'altra per avere notizie bisognerà attendere circa la mezzanotte, forse qualche minuto prima, ora italiana, perché arriva alla Casa Bianca il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, Abu Mazen proporrà ad Obama l'istituzione di una commissione di controllo che dovrà lavorare per conto del cosiddetto quartetto, no? Il quartetto di mediatori per il Medio Oriente che mette insieme Stati Uniti, Russia, ONU e Unione Europea, e per assicurare che israeliani e palestinesi rispettino i loro impegni. Il presidente Abu Mazen illustrerà anche nuove idee riguardanti la roadmap, il piano di pace formulato dal quartetto in questione già nel 2003, e l'iniziativa di pace araba riguardo al diritto di ritorno dei rifugiati, questione cruciale nel procedimento di pace. Abu Mazen ha fatto sapere che non intende richiedere il ritorno dei 5 milioni di palestinesi in Israele e ha ricordato che su questo punto, peraltro, aveva già raggiunto una intesa con l'ex premier israeliano Ehud Olmert. Non distruggeremo Israele è stata la frase a effetto che ha pronunciato a questo riguardo Abu Mazen. Vi ricordo, se seguite Jefferson lo saprete, ve ne abbiamo parlato ripetutamente, che Obama ha già ricevuto alla Casa Bianca il re Giordano Abdallah e soprattutto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, e l'incontro è andato come è andato, e tutto ciò è poi in realtà un grande lavoro preparatorio in vista dell'ormai imminente discorso del 4 giugno, quando sarà all'Università del Cairo Barack Obama e pronuncerà il cosiddetto, quello che ormai è stato battezzato come il discorso al mondo musulmano, nel quale si vocifera che dovrebbe annunciare un suo nuovo piano di pace per il Medio Oriente, elaborato dal suo team, che chiamerebbe a coinvolgere non solo israeliani e palestinesi, ma anche i paesi arabi moderati della regione. Poi c'è anche tanta fantapolitica gira intorno a questa ipotesi, ma in avvicinamento ne parleremo diffusamente, e tra l'altro penso che domani magari insieme a Mario Platero proveremo a stendere qualche ipotesi, a cercare di capire meglio come si può strutturare questa comunicazione presidenziale. A margine dell'incontro con Abu Mazen arriva una notizia interessante da valutare, la notizia relativa a queste famose fotografie che Barack Obama ha deciso di non mostrare all'opinione pubblica, relative a quelle che ora vengono definiti stupri e torture all'interno della prigione di Abu Ghraib. Ne parla in questo caso invece un quotidiano britannico, il Telegraph, Daily Telegraph, con una intervista al generale in pensione Antonio Taguba, responsabile delle inchieste per l'appunto relative agli abusi che avrebbero avuto luogo nella prigione di Abu Ghraib. Dice Taguba: non capisco quale scopo possa avere la loro pubblicazione, concordando quindi con la scelta prodotta da Barack Obama. Le conseguenze potrebbero nuocere alla sicurezza dei nostri soldati, gli unici difensori della nostra politica internazionale, nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. E poi ha chiuso con una frase raggelante il generale Taguba, ha detto: la sola descrizione di queste fotografie è sufficientemente orrenda, fidatevi del mio giudizio. Ma torniamo un attimo all'incontro di stasera, di stanotte ora italiana, tra Mahmoud Abbas e Barack Obama. Il colloquio naturalmente sarà dominato dalla necessità per i palestinesi di ricevere rassicurazioni sull'impegno americano per la formula dei due stati e sulle pressioni esercitate su Israele perché smetta di ampliare o di enunciare perlomeno l'ampliamento di insediamenti in Cisgiordania. Sul colloquio in questione pesa senza dubbio l'esito negativo. Alla fine, dopo un po' di diplomazia e qualche tentativo di ammorbidire la questione. Alla fine ormai le diplomazie americane e anche quelle israeliane e i relativi media parlano apertamente di negatività dell'incontro che si è svolto alla Casa Bianca tra Obama e Benjamin Netanyahu. Sarebbero emerse divergenze tra i due leader, divergenze che si spera non si rivelino decisamente incolmabili tra i due leader sulla strada per giungere alla ripresa dei negoziati israelo-palestinesi. Il presidente palestinese Mazen ha ribadito alla vigilia dell'incontro con Obama che il premier Netanyahu deve accettare il principio di uno Stato palestinese prima che i colloqui di pace possano essere ripresi. Hillary Clinton, segretario di Stato americano, ieri ha ribadito che l'amministrazione Obama chiede agli israeliani reiteratamente di congelare i loro insediamenti in Cisgiordania, ma la delegazione palestinese continua ad avanzare scetticismo sulla capacità americana di poter intervenire con efficacia sul governo israeliano, che sembra decisamente aver messo in soffitta, almeno per il momento, gli impegni presi ad Annapolis. Concludo dicendoti che il leader palestinese Mazen ha avuto una serie di incontri preparatori a Washington, già in città da l'altro ieri sera, prima di incontrare Barack Obama. Ha visto il presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick presso la sede di questa istituzione, dove si annuncerà, secondo fonti palestinesi, la concessione di nuovi aiuti, 55 milioni di dollari, una cifra non enorme, ma insomma di una certa consistenza, all'autorità palestinese. Incontri anche con esponenti politici e naturalmente Hillary Clinton vicinissima al cuore di questo incontro. Fallito il tentativo di apertura positiva di negoziato con Netanyahu, adesso Obama guarda con una certa prudenza ma con interesse al meeting, al vertice con Mazen. Naturalmente non ne potrà uscire in ogni caso, visto il cattivo andamento del vertice con Netanyahu, in modo troppo ottimistico o troppo entusiasta. La barca è una barca veramente sottile, basta oscillare troppo da una parte per avere pericoli di ribaltamento. Obama dovrà mantenere il centro, sembra indispensabile in questo momento, quindi è facile presupporre, è facile presagire che anche i comunicati alla fine dell'incontro andranno in direzione di una, ci auguriamo, ottimistica, ma in ogni caso di una decisa prudenza. The clocks are quiet. Little Joe's in jail. He got stopped late Sunday, this drunken ornery took a swing, no bail. And Clyde only smiles when Marianne is here. You know she married too young to a poor anyone for money, for fear. It's happy now. The music gets loud. It's happy now. Tell a joke, let a smoke, just let the day go for now. Things aren't the same since Toby was killed. For a while we assumed he got fed up and moved for his dream in Nashville. But we're all moving targets and it's all for sale. Either a pearl-shaped pill is killing your will or your tooth and nail. It's happy. La canzone Calma abbiamo scelto per questa giornata, poi un po' particolare, no? Emiliano, qua a Roma sono un po' sonnolenta, un po' non dico dopo sbronza, perché di sbronze ieri la canzone in questione si chiama Happy Hour, peraltro è notare. Di spagnolo era ufficialmente proibito, poi naturalmente fatta la legge e trovato l'inganno. Comunque c'è stata una sbornia di internazionalità, non so come dire. No, ma anche stamattina si vedevano gli spagnoli molto allegri, gli inglesi un po' scomparsi, più naturalmente abbacchiati dopo la sconfitta di ieri. Insomma. Comunque, insomma, appunto, la temperatura, l'estate e il dopo evento contribuisce a stabilire così un'atmosfera, se non rilassata, diciamo, di una certa calma. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Vediamo dove invece la movida. Andiamo come la movida, sempre lontani, la lasciamo, movida resta, cioè. Lasciamo Roma, diciamo, la sua tranquilla AFA post finale di Champions. E caro Stefano, con te vorrei parlare in particolare di Nancy Pelosi. Oh. Insomma, non ha certo bisogno di presentazioni, la speaker della Camera, terza carica americana, credo, no? Certo, secondo certo. La gerarchia del potere di Washington, che ha appena finito una sua corposa visita in Cina, come già Hillary Clinton qualche mese fa e come farà in autunno Obama. Nancy Pelosi è passata da quello che è l'interlocutore principale ormai dell'economia americana, cioè il Pechino, cioè la Cina. Ha fatto 4 giorni di visita in cui ha incontrato tutti i big del Partito Comunista, in particolare Hu Jintao, ha stretto importanti alleanze sul fronte dell'ambiente e dell'energia, quindi il tema dei temi, certo, della certo. Difesa del pianeta e del clima. Però c'è un elemento che non è piaciuto molto ai cinesi e l'hanno fatto notare, non so poi se sui giornali americani se ne sia parlato, e cioè che la Pelosi, che insomma, vista la sua biografia, ha un curriculum legato alla difesa dei diritti umani, alle proteste per i diritti civili e quant'altro, in questi 4 giorni a Pechino ha taciuto della questione, un po' come fece Hillary Clinton a suo tempo con la visita di qualche mese fa. Non ha voluto fa, stuzzicare insomma, di mezzo il soldi, dragone. Certo. La diplomazia non ha toccato tasti che invece in passato aveva toccato molto, molto volentieri. Per esempio, rispolverando così la biografia della Pelosi, abbiamo ritrovato che nel 91 espose uno striscione in piazza Tiananmen per ricordare le vittime appunto del massacro di cui ricorrono i 20 anni tra pochi giorni. Poi sempre negli anni 90 si era opposta ai rapporti commerciali tra Pechino e Washington e l'anno scorso, quindi quando era già speaker della Camera, ricorderete forse qualcuno, chiese a Bush di boicottare la cerimonia inaugurale alle Olimpiadi, certo. Perché lei si era poi fatta fotografare insieme al Dalai Lama. Tutto questo è sparito nel giro di un anno col cambio di governo, forse, chi lo sa, insomma, comunque con altre cose più importanti in vista. Non ha toccato questo argomento, però se l'è cavata, in realtà poi forse la toppa è peggio del buco, perché ha detto i temi legati all'ambiente fanno parte dei diritti umani, mi sembra una spiegazione. No, ma lei è un personaggio politico sicuramente con un discreto carico di contraddizioni all'interno della sua biografia, del suo curriculum. Del resto è sempre voluta essere, tanto più adesso, no, che c'è questo sguardo vagamente nostalgico all'America dei diritti, delle grandi battaglie dei diritti civili, una politica attivista, come spesso avviene nelle grandi nazioni ricche, Italia inclusa, quando ci si mobilita molto per i diritti civili degli altri, no? Poi c'è tutto questo sali e scendi, c'è questo borsino delle grandi cause che appaiono e scompaiono a seconda della convenienza, addirittura a seconda delle mode. Ricordiamoci sempre le magliette Free Tibet nei giornali di moda italiani. Tra l'altro la Pelosi, appena sbarcata a Pechino, era stata accolta calorosamente da un gruppo di attivisti cinesi, certo. Gli hanno fatto delle striscioni anche simpatici, dai Pelosi noi ti amiamo, benvenuta Pelosi, stai attenta ai diritti umani, abbasso la corruzione e quant'altro. Poi appunto neanche questi incentivi, sì, a parlare. Va detto che se c'è una personalità nel gruppo di vertice dell'amministrazione, anche se poi lei non è tecnicamente parte dell'amministrazione insediata da Obama, ma che è nel mirino dei media, secondo me internazionali, non solo americani, è lei, secondo me è uno dei bersagli più scoperti. Non a caso i repubblicani, quando decidono di attaccare, o attaccano il povero Geithner, l'uomo dei conti, che pare non avere mai la coscienza a posto, o se la pigliano là. Io invece vi do una piccola notizia relativa alla eroina della settimana, a Jefferson, questa 54enne signora Sonia Sotomayor, diventata giudice della Corte Suprema e quindi personaggio chiave, cardine. Ne parliamo tanto, sia ben chiaro, perché i giudici della Corte Suprema in America sono quelli che incidono fattivamente sull'andamento della vita degli americani, perché sono chiamati a esprimere delle decisioni talmente importanti, talmente centrali, che poi toccano la vita della gente della strada. Comunque la Sotomayor deve sottoporsi alla commissione di approvazione della sua nomina. Non è una passeggiata, commissione in America è una parola che fa paura, almeno pelo quanti... e contropelo, sì, si in Italia fanno, non so cos'è che fa così paura, esame, non so, ecco, e per farlo Obama e soci stanno preparando un debito comitato di preparazione, no? Ovvero la stanno facendo studiare, coaching è la parola che usano gli americani, no? Allenamento ad affrontare le domande che saranno puntute, dispettose, in certi casi anche a trabocchetto, che le verranno rivolte. Non è scontato l'avallo alla carica, è scontato, se mi posso permettere, però deve sudarselo. Hanno chiamato dei grossi calibri, il senatore Schumer, democratico di New York, che è un veterano dell'ambito giudiziario del paese, Stephanie Carter, che è personaggio sociale, diciamo così, del team di transizione, Cinzia Hogan, capo del gruppo di consulenza della vicepresidenza Biden, tutto per mettere Sotomayor sul giusto binario. Cobalt songs and railroad again. Alcohol evaporates through skin. One gift, sugar. Dunque, Jefferson è un programma, ormai lo avrete capito, siamo qui da 2 anni e mezzo, è un programma che per suo mandato, vocazione, spirito si occupa soprattutto di aspetti sociali, socioculturali, sociopolitiche di questi grandi mondi che ci girano tutto attorno, dei personaggi che li animano e delle notizie che giorno per giorno si succedono e modificano le dinamiche e i rapporti. Ma naturalmente l'economia a tutti gli effetti è il grande motore di tutto questo discorso, di conseguenza anche la nostra attenzione è attratta dal Festival dell'Economia di Trento, la cui 4ª edizione comincia il 29 maggio, domani, e andrà avanti fino al 1 giugno. Il titolo è Identità e crisi globale, un programma densissimo, naturalmente con la crisi economica al centro del osservatorio, tanti ospiti, tante partecipazioni, tanti voci e volti che di tanto in tanto si fanno vedere anche qui a Jefferson. Abbiamo dato un'occhiata approfondita al denso programma del Festival dell'Economia. Vi segnalo per esempio sabato 30 maggio al Palazzo della Provincia uno spazio chiamato il Tribunale della Crisi, con un processo agli economisti che verrà presieduto da Massimo Gaggi e Corriere della Sera, con Roberto Perotti e Luigi Guiso in veste di accusatori e difensori. C'è un incontro con John Talbot, l'autore di Obamanomics, questo è molto difficile, Obamanomics, dalla crisi dell'alta finanza all'economia dal basso, sempre a mezzogiorno, con Vittorio Emanuele Parsi e Armando Massarenti a partecipare sempre il 30 maggio. Vi segnaliamo Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, lo stesso giorno di sabato presenta la nuova ecologia politica, economia e sviluppo umano alla Fondazione Bruno Kessler. Vi segnalo Rampini, Federico Rampini, un amico del nostro programma, con introduzione Fabrizio Galimberti, presenta Capitalismo Irresponsabile, una testimonianza domenica 31 maggio, o il docente di economia di Harvard Edward Glaser, introdotto a Nicola Porro, presenta Come i limiti della conoscenza umana spiegano la crescita delle città, l'odio etnico e le differenze tra Stati Uniti ed Europa, un intervento sicuramente da sentire, da seguire, lunedì 1 giugno alla frontiera di Palazzo Geremia alle ore 15. Abbiamo pensato di dare anche un nostro modesto, come dire, un po' improvvisato contributo per quello che sappiamo fare, per come vediamo e presentiamo le cose dall'osservatorio di Jefferson. Per chiamarlo abbiamo convocato, come dire, voci e menti sicure, quelle su cui contiamo, perché abbiamo pensato utile dare di nostro un'occhiata, così fare un piccolo approfondimento sulla Cina del momento. Abbiamo due persone che da tanto tempo ci aiutano a fare questo mestiere. Sono Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, Saro Capozzoli, presidente IESA, società di consulenza strategica. Li abbiamo entrambi in ascolto. Saluto prima Giuliano, buon pomeriggio Giuliano. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Ecco di qua, è Saro, che dovrebbe essere da Shanghai, secondo me al solito ristorante, l'abbiamo pizzicato a sentire allo sfondo. Ciao Saro. Sì, ciao a tutti. Un giardino, mi sa, con tavoli e tovaglie. Comunque, sì. Vi voglio sottoporre, e vi ruberemo solo una decina di minuti, vi voglio sottoporre alcuni temi che, come dire, se facessimo un micro festival dell'economia cinese, per come la raccontiamo da qua, sarebbero sicuramente all'ordine del giorno. Allora, Giuliano, partirei da te, poi sulla stessa domanda, naturalmente gradito anche un intervento Saro. Proviamo a fare rapidamente, telegraficamente, il punto sulle opportunità italiane di business, di export, import, ma di business all'estero per quello che riguarda la Cina, soprattutto in base alle ultime tendenze, ovvero si vanno ampliando, si vanno restringendo, c'è qualcosa di nuovo da segnalare, Giuliano? Ma come tutti i radioascoltatori forse avranno letto in questi ultimi giorni, in realtà le esportazioni italiane stanno crescendo solo nei paesi come la Cina e l'India. Quindi un primo dato di fatto è la Cina sicuramente è ricettiva rispetto al Made in Italy. In quali comparti? Beh, i comparti in verità sono molteplici. Direi dalle tradizionali 4A italiane, quindi l'alimentare, l'automazione, l'arredo e l'abbigliamento, chiaramente posizionandoci in una fascia medio-alta, io direi che tutto quello che è il comparto dell'industria meccanica potrà avere un rilievo, degli equipaggiamenti a supporto del piano infrastrutturale varato dalla Cina, rappresentano significative opportunità. Ricordo agli ascoltatori che il piano di stimolo varato a novembre vale 560 miliardi di dollari ed è il secondo più importante del pianeta varato a valle della crisi. Ecco, il tuo barometro personale sulla situazione com'è? Tende al bello o no? Secondo me diciamo che tende a volge verso il bello. Previsioni degli economisti molto più autorevoli del sottoscritto danno un tasso di crescita del prodotto interno lordo cinese tra il 6,5% e l'8%. Direi che l'aspetto rilevante però che ci interessa come esportatori è che finalmente la Cina comincia a investire su una crescita della domanda interna. Negli ultimi mesi, come abbiamo già più volte detto, i tassi di crescita della domanda sono a due cifre, quindi in questo dobbiamo sperare. Certo. Saro Capozzoli ha fatto della consulenza strategica a chi fa affari in Cina il suo mestiere, la sua specialità, la sua professione. Ecco, il tuo personale barometro, Saro, in questo momento come si orienta per gli italiani che vogliono fare, vogliono importare, vogliono esportare? Certo, sono d'accordo con quanto è stato detto finora. Quello che vorrei anche dire è che non è comunque il paese del Bengodi adesso, perché non è che adesso uno prende un aereo e viene qua e automaticamente vende. Diventa ricco. Si sta adesso beneficiando beneficiano di questo flusso di capitali che hanno praticamente galvanizzato e sostenuto la domanda interna, e lo sarà ancora di più, sono aziende che però hanno cominciato a muoversi in Cina molti anni fa, ma anche pochi anni fa, anche partendo 2 o 3 anni fa. Dato che i prodotti che vengono introdotti in Cina richiedono un certo periodo di tempo per poter essere assimilati come brand, come qualità, come diciamo, specialmente il brand, perché il cinese compra il brand perché deve essere comunque noto. Io ho visto brand famosi, no, marchi famosi in Europa, nel mondo, anche in Giappone, arrivare in Cina e ricominciare da capo perché qui non era per niente conosciuti, qui ci vuole il suo tempo. Quindi chi sta beneficiando adesso di questi acquisti, di questo flusso di denaro che parte dall'interno della Cina e poi ritorna in Europa, sono chi si è mosso un po' prima. Certamente non è troppo io, no? Ecco, quindi è sempre un invito a guardare la Cina con opportunità di mercato, di sviluppo del proprio mercato, e non più come una a basso costo per poi riportare dove? In un mercato come il nostro che si è depresso a altissimi livelli. Bene, secondo punto che vorrei affrontare con voi per questo rapido sguardo d'orizzonte, Expo 2010 di Shanghai, e naturalmente sullo sfondo il complicato appuntamento nostrano di Milano nel 2015, un quadro della situazione per, come dire, introdurre questo evento al grande pubblico e al nostro pubblico degli ascoltatori, per come lo state valutando man mano che si avvicina. Giuliano, che cosa puoi dire? Ma diciamo che l'Expo è certamente una formidabile vetrina per cominciare a fare quello che diceva poc'anzi Saro, cominciare anche a costruirsi un'immagine. Sono molto d'accordo in questo senso, la necessità di avere pazienza. Certo, l'Expo, per sfortuna degli amici cinesi, un po' si è depotenziato, nel senso che non capita in un gran momento, insomma. Non capita in un gran momento, quindi la capacità di spesa anche dei vari paesi, gli investimenti nei padiglioni non saranno certamente faraonici o comunque coerenti con quelle che erano le aspettative. Ma tu lo consideri ancora un concetto, come dire, sincronico con il contemporaneo, il concetto di Expo? Ti sembra ancora vendibile, ancora presentabile nella sua natura, diciamo? Ma diciamo che l'Expo ha subito l'esposizione universale dei cambiamenti nel corso della sua storia, della sua lunga storia. Prima era una manifestazione assolutamente generalista, adesso con l'Expo ad esempio di Shanghai è una manifestazione tematica. Ricordo che il tema dell'Expo di Shanghai è Better City, Better Life, quindi certo, su quelle che sono l'urbanistica sostenibile per le città e per un migliore sviluppo delle città. In questo senso può avere ancora un significato, lo ha sicuramente in un paese emergente come la Cina, ove l'Expo è prevalentemente realizzato per i consumatori locali, per i visitatori locali. Quindi in questo senso l'Expo si è modificato, l'Expo cinese è rilevante perché si rivolge quasi esclusivamente ai cinesi, per gli italiani è una significativa vetrina. Ricordo ai radioascoltatori che il padiglione italiano è il secondo più grande per dimensione. Questa è una osservazione sulla quale riflettere. Siamo in collegamento con Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, con Saro Capozzoli, presidente di IESA, società di consulenza strategica per chi vuole fare affari in Cina. Stiamo offrendo il nostro personale contributo alla inaugurazione, se così possiamo addirittura esprimerci, al Festival dell'Economia di Trento. Stiamo provando a fare un giro d'orizzonte sulla Cina, per quella che abbiamo imparato a conoscere e a descrivere qui da Jefferson nelle ultime stagioni. Riprenderei da Saro, ma prendendo però spunto da una cosa che ha detto Giuliano, piuttosto impressionante, alla Expo di Shanghai 2010 il padiglione italiano è uno dei principali, addirittura il secondo per importanza, per quantità di spazio, forse anche per energie in esso coinvolte. notte. Questo, Saro, non collima con, no, con quell'aria, come dire, sempre vagamente depressa che spesso tu ci hai trasmesso nell'approccio italiano alla Cina. Insomma, stiamo andando lì in grande stile, oppure è una questione di metraggio ma non di mentalità? Che ne dici? No, certamente la decisione è stata delle decisioni più importanti e più azzeccate fatte dai nostri governi in Cina. È stata presa nel 2000, quando c'è stato appunto l'anno dell'Italia in Cina. C'è stato un anno di celebrazioni, certo, che sono andate avanti per diversi mesi. È iniziato appunto con un governo, con un altro governo, no? Quindi è un discorso che è stato sposato da tutto lo schieramento politico. Quindi si è deciso, finora l'Italia è stata latitante e si è deciso di fare una cosa in grande. Da notare che la cosa positiva è che comunque io vorrei rimarcare che questa exhibition, questa esposizione del paese, non è tanto un qualcosa che farà una fiera di paese, una fiera, diciamo, comunque campionaria, come si è detto, ma un qualcosa che vuol far ogni paese mostrerà i propri vantaggi, le proprie tecnologie, i propri diciamo punti di forza, come la Cina, che è ancora per il 70% della popolazione, per quello che è l'estensione della Cina, bisogna ancora di tante infrastrutture, di migliorare la qualità della vita nelle città. D'altra parte abbiamo un paese come gli Stati Uniti che non hanno ancora deciso se fare o no questa il padiglione, se partecipare, perché non hanno i soldi, bisogna dirlo. Infatti, da quello che so che stanno cercando degli sponsor per arrivare a coprire questi costi, quindi certo, siamo in una situazione paradossale, no? Dove un paese come l'Italia, con i problemi che abbiamo, certo, è presente, sarà presente in stile, mentre gli Stati Uniti saranno probabilmente, non dico assenti, perché arriveranno i cinesi probabilmente a costruire loro per gli Stati Uniti. Questa sembra la soluzione che si sta prendendo, perché non possono mancare, no? Certo. Per tener conto che ci sono comunque molti padiglioni, la maggior parte sono padiglioni locali, del Sichuan, dell'Ebei, cioè è un modo per fine anche dimostrarsi al mondo, certo, molti certo. Città e province locali, province cinesi parteciperanno e sarà una esibizione, un'esposizione che rivolta molto ai cinesi, che sembra saranno per un gran numero, quasi il 95% dei visitatori saranno cinesi. Certo, quindi privilegiando anche un regionalismo che per noi è sicuramente piuttosto inedito, già è faticoso per gli italiani approcciare l'idea di Cina, provare a scendere su dei distinguo più specialistici, è sicuramente un discorso ambizioso, ma che in una sede del genere potrebbe avere un suo avvio. Io voglio offrirvi un minuto finale circa a testa per tornare su un vecchio leitmotiv, ma anche un dente dolente, no, dei discorsi, delle relazioni tra Italia e Cina, che si chiama Alitalia. Allora vorrei partire da Giuliano, che sta vivendo in Italia, insomma, frequentando la televisione italiana, probabilmente avrà visto anche le nuove campagne pubblicitarie di Alitalia, con quel gusto un po' vintage, insomma, quella riproposizione di uno stile italiano che prova a rinnovarsi, a ritrovarsi, però, come Saro spesso insiste a dire, continuano a non esserci voli con la Cina. Che politica fa questa compagnia? Che ne dici tu, Giuliano, che tra l'altro sei anche un utente di questi voli? Ma come dire, sì, in effetti molto vintage, ma poco efficace rispetto a quelli che sono i grandi paesi su cui noi dobbiamo puntare. Quantomeno poi, vivendo a Milano, io faccio una terribile fatica a muovermi verso est, ragionevolmente riesco ad arrivare a Mosca, invece è pressoché impossibile se non vado verso un hub europeo, in India ugualmente. Ma il paradosso è che le linee straniere sono piene di passeggeri italiani, quindi quello che non si riesce veramente a capire è quale sia il razionale di business che è alla base di questo tipo di decisione, o meglio, forse la compriamo tenendo conto delle sinergie che vengono esercitate a livello del nuovo gruppo che si va profilando, ovvero il fatto che il France KLM hanno già tratte ben consolidate in questi paesi. Per noi è richiesto andare in hub mitteleuropei per giungere poi a azione. Per me è una decisione piuttosto curiosa e bizzarra. Serie B, quindi. Saro, nuova compagnia, ma a te, utente, come dire, veterano, niente nuovo sotto il sole? Come la vedi? Ma niente di nuovo, io ho visto un comportamento scandaloso negli anni passati dell'Italia nei confronti dell'Est, non tanto solo della Cina, Shanghai, ma ecco, si puntava molto più su Tokyo, probabilmente perché c'era la massa di giapponesi che venivano appunto in Italia a comprare via Monte Napoleone. Ecco, qui siamo in un momento in cui ci sono i cinesi che cominciano a viaggiare a milioni, il business che ormai si è portato col baricentro in Cina, Shanghai, Pechino, Canton, Hong Kong, e non siamo assenti, ed è una situazione da far notare che quello che è rimasto nella vecchia l'Italia sono gli uffici aperti qui in Asia e sono rimasti come peso alla vecchia l'Italia, cioè questi uffici hanno chiuso adesso da poco l'ufficio di Shanghai, da poco tempo. Staranno chiudendo adesso, sembra che ci sia Hong Kong, quindi persona a far che cosa, non ci sono voli, no? E quindi è una situazione proprio incredibile in cui noi abbiamo un Expo che arriverà nel 2015 e c'è quello che c'è l'Expo del prossimo anno, ma non tanto solo le esposizioni, è proprio il senso di mancare la Cotto Hub. Vi faccio notare che quando nel 2002 l'Alitalia ha rinunciato ai voli sulla Cina, i suoi hub sono stati presi dalla Turkish Airlines, ecco, dalla Malev ungherese, no? E mi sembra che hanno preso un hub e è andato a finire anche in mano un'altra linea aerea sudafricana. Va bene, Sara. Io so che se voglio farti disperare, voglio farti parlare, la parola chiave la conosco, è Alitalia. Io ringrazio di cuore Giuliano Noce, Saro Capozzoli e i suoi gamberetti in agrodolce che saranno freddati per averci dato una mano a fare questo punto della situazione. Questo era Jefferson 2, sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Oreggi a Milano, la mail Jefferson 2 @radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, podcast sul sito della radio, diretta dopo le 4 qui su Radio 24.